Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Una domenica pomeriggio per la borghesia del calcio italiano, per chi lotta per la salvezza, con le grandi che hanno giocato ieri sera o che giocheranno stasera nel caso dell'Inter, un weekend che precede i primi verdetti di Champions League e che segue le ultime amichevoli delle nazionali e della nostra nazionale prima delle convocazioni mondiali. Questi temi della giornata, di cui discuteremo anche e soprattutto con voi, 800240024 è il numero verde, ma adesso vi do altri numeri che sono i risultati di questa 27esima di Serie A. Atalanta-Udinese finisce 0-0 con l'Atalanta che continua a soffrire in fondo alla classifica, che gioca una gara non come dovrebbe una squadra che forse si sta giocando le ultime chance di salvezza. Tra l'altro Atalanta che chiude in 10 per l'espulsione di Bianco, doppia ammonizione al 42esimo della ripresa. Il Bari batte di misura il Chievo 1-0, il gol è di Castiglio al 20esimo, bellissima l'azione di Allegretti, la percussione di Allegretti, così come il servizio che l'avesse fatto Ronaldinho, ne avremmo parlato per un mese. Castiglio stop e girata in diagonale, molto bella, molto furba, molto astuta per il gol partita. Nel finale il Bari sbaglia anche il rigore del raddoppio, fallo presunto tale di Fre su Meggiorini, Sorrentino pare il rigore di Donati. Il Napoli perde la partita e si allontana dal quarto posto. Sembrava questa una domenica destinata a sorridere alla Juventus, invece poi ve lo racconto. Il Palermo batte non senza soffrire il Livorno, ma il Napoli come detto perde 2-1 sul campo di un Bologna che sta vivendo un momento fantastico onestamente. Grande partita di Zalaieta che sblocca la gara al settimo su un tiro cross di Boucher, deviando un tiro cross di Boucher, quindi una punizione, una sorta di tiro cross di Adailton su punizione dalla destra, inganna l'intera difesa del Napoli e lo stesso De Santis al 12esimo, e lì il Napoli è già sotto di due reti. Al 14esimo riapre i giochi Rinaldo con un colpo di testa su cross da destra di Lavezzi. Nel secondo tempo e soprattutto nel finale, arrembaggio vero del Napoli che al solito migliora le sue prestazioni, migliora la sua faccia, migliora anche la quantità delle occasioni da gol prodotte quando entra Denis, cosa che è accaduta nella ripresa. Ha giocato dal primo minuto Quagliarella, ma mi sembra un Quagliarella lontanissimo dai giorni migliori, e questo vale anche in chiave azzurra. Nella ripresa assalto del Napoli come detto, ma il risultato non cambia. A proposito, una curiosità statistica: 14 gol di oggi pomeriggio, non tantissimi, due soltanto nella ripresa. Uno di questi viene segnato a Cagliari, 2-2 tra Cagliari e Catania, terrificante punizione di Lazzari da 30 metri al nono minuto per aprire la gara con il vantaggio dei sardi. Quindi chiaro fallo di Canini su Martinez, rigore per il Catania trasformato da Mascara. Al 35esimo Catania in vantaggio con richiudi che serve Maxi Lopez, che salta Marchetti e segna il gol del 2-1. Cagliari che nella ripresa rimane in 10 per espulsione di Canini, doppia ammonizione al 24esimo. Il Catania sta per chiudere la gara, traversa di Isco, il Cagliari sembra sul punto di crollare, mentre Cossu, neoazzurro, il tema ritorna, entrato nella ripresa con un bel destro al volo, segna il gol del 2-2. Prima di raccontarvi Palermo-Livorno e Sampdoria-Lazio e Siena-Parma, andiamo proprio a Genova per sentire Del Neri. Oggi è tornato in campo Cassano, 24esimo della ripresa, anche qui un Cassano lontano dalla condizione migliore. Del Neri. Però non deve essere un assillo continuo. Cioè, noi tentiamo di farcela, se non ce la facciamo va bene lo stesso. Proverete con un alleato in più, oggi è tornato Antonio Cassano, deve ancora ovviamente recuperare la forma migliore, era stato chiaro anche in conferenza stampa, però già il fatto di rivederlo in campo è un vantaggio in più. Adesso piano piano questa è la forma, anche giocando lo spezzone di partita in questi ultimi, prossimamente, quindi è importante averlo che ritorni con noi, è entrato nel gruppo, sta lavorando per ritrovare la forma, se non quella migliore, però una forma importante che gli permette di giocare a buoni livelli, e di questo siamo felici tutti quanti. Fabio. Beppe Bergomi ha una domanda. Questo Gigi Del Neri. Dunque, io finisco di raccontarvi le partite, poi se volete ne parliamo anche di Cassano, che tra l'altro nel finale con la Lazio tutta rovesciata in avanti nel tentativo di trovare il 2-2, ha un pallone anche per segnare, si trova tu per tu con Muslera, ma come detto è molto lontano dai giorni migliori, sia nello scatto che nel tocco si fa soffiare il pallone dal portiere della Lazio. Dicevo, il Palermo continua nella sua corsa, con sempre più convinzione ho l'impressione, un Palermo che mi sembra anche nell'atteggiamento avuto nella gara di oggi, una partita non semplice, perché il Livorno ha giocato una buona gara, perché Rubinho ha parlato tutto, il Palermo ha vinto soffrendo, ma lo ha fatto, con un gol di Micoli al 36esimo della ripresa, percussione di Bertolo e quindi palla che arriva a Miccoli, destro piazzato nell'angolino del capitano, e la classifica del Palermo è onestamente fantastica, al di là di ogni immaginazione, ma non mi stancherò mai di ripetere che Delio Rossi è un grande allenatore e ha dato a questa squadra la fisionomia, la quadratura, anche il cinismo di cui aveva bisogno il Palermo, una squadra comunque di talento. Veniamo a Sampdoria-Lazio per l'appunto, nervosismo diffuso, eccessivo per una Lazio che comunque oggi non ha giocato male a Genova, è anche passata in vantaggio, Zarate dal primo minuto, ha giocato dal primo minuto fino al momento dell'espulsione, 32esimo del secondo tempo, per eccessive, vistosissime proteste, nemmeno ho capito bene per quale ragione. Insomma, mi pare che Brighi non potesse fare altro se non allontanarlo dal campo, dopo aver allontanato qualche minuto prima, al 23esimo, anche l'allenatore della Lazio, Direia. Nervosismo diffuso, secondo me anche in parte ingiustificato, insomma, nervosismo che si trasmette a tutto un ambiente che è sull'orlo di una crisi di nervi, chiaramente. Comunque gol della Lazio al settimo, cross da sinistra di Zarate, appunto, Floccari, peraltro in posizione non chiarissima, in sospetto fuori gioco, vince un contrasto, anche in questo caso non chiarissimo, con Accardi, e segna il gol dell'1-0. Al 29esimo, uno dei gol più belli di giornata, lo segna Guberti con un destro dai 30 metri, non particolarmente angolato, Muslera nemmeno accenna all'intervento, la palla si insacca, 36esimo. Destro al volo di Pazzini su tocco di Semioli, vantaggio della Sampdoria, ed è il gol definitivo. Nel secondo tempo, come detto, al 24esimo torna Cassano al posto di Pozzi, arrembaggio finale della Lazio, pure in 10 contro 11, ma vittoria che va ad una Sampdoria che a questo punto è a un punto dalla Juventus ed è a 3 punti dal Palermo. Sampdoria che continua ad avere una classifica ottima. Ultima partita di giornata in zona calda, Siena-Parma finisce 1-1, Parma in vantaggio con Biabiani al 34esimo, colpo di testa su cross di Valiani, il Siena non molla al 24esimo della ripresa, su una percussione da destra di Larrondo, a rimorchio Vergassola da centro area per l'1-1, anche in questa partita un'espulsione, quella di Jimenez, Emiliano al 33esimo del secondo tempo per doppia munizione, ma comunque un Parma che chiaramente non sa più vincere, che in classifica viene agguantato dal Bologna, quota 34. Guidolin con Sky. Attraversa. Poi noi ci siamo assestati meglio, siamo passati dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e lì abbiamo cominciato a giocare meglio la gara, abbassando Luis Jimenez in posizione da regista. E siamo andati in vantaggio, poi abbiamo secondo me meritato il vantaggio dopo averlo conseguito. Nel secondo tempo invece siamo partiti forti, abbiamo avuto la palla per chiudere la gara e credo che sul 2-0 con quella traversa clamorosa di Morrone sarebbe stato molto difficile anche nervosamente per il Siena. Non è stato così, quasi ribaltamento di fronte, 1-1, credo meritato, credo giusto anche per il Siena, ma al termine di una partita viva e tirata fino all'ultimo. Su due giocatori. Sì, però adesso per il Parma la classifica è onestamente deficitaria, tenuto conto dell'organico a disposizione di Guidolin. Classifica che vi leggo dopo il traffico, poi magari cominciamo a parlare insieme dei temi di questo weekend. 800-24-0024 è il numero verde, messaggi 349-238-6666 ed è condivisibile quello di chi scrive che Palermo e Sampdoria sono le rivelazioni di questo girone di ritorno, ma lo dicono i numeri in realtà. Traffico. Strade in diretta. Ci sono code per lavori circa 2 km lungo la Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Aresta e la diramazione per Pisa verso Livorno. Code anche verso il confine con la Svizzera per il traffico lungo la 9 da Como-Monte Olimpino. Traffico in aumento ma scorrevole sul resto dei percorsi. Per quanto riguarda le condizioni meteo, continua a nevicare sul basso Piemonte, in particolare lungo la 6 Torino-Savona. Non si segnalano comunque particolari disagi. Nevica anche sulla 15 della Cisa tra Fornovo e Pontremoli e debolmente sull'autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. È tutto per il momento, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Yeah. tempo di sport. Dunque classifica, il Milan almeno fino alle 11:15 di stasera è a una sola vittoria dall'Inter, Inter 58 e gioca stasera col Genoa per l'appunto, Milan 55, Roma 52 punti, quarto è il Palermo in solitudine 46, Palermo che dunque risponde alla Juventus, Juventus 44 punti, Sampdoria sola al sesto posto con 43, si allontana da queste posizioni il Napoli che ha 41 punti, quindi Cagliari 39, Genoa 38. A 35 troviamo Fiorentina furiosa con gli arbitri, e questo è uno dei temi più curiosi secondo me della giornata, con Prandelli che è sempre stato uno dei migliori interpreti dei dopogara anche più incarogniti, e che adesso invece guida il partito di chi vuole la moviola in campo. Peccato che soltanto ieri l'International Board, i depositari delle regole del calcio, abbiano detto in modo molto chiaro, in modo molto definitivo, che di tecnologia nel calcio non si parlerà più, almeno per un bel po', per la disperazione, io credo, di una cinquantina di milioni di italiani. Quelli che restano se ne infischiano perché hanno altri hobby, oppure come me condividono la direttiva e la decisione dell'International Board. Dicevo, 35 punti per Fiorentina, Chievo e Bari, Bologna e Parma 34, quindi a 28 troviamo Catania e Udinese. La Lazio con una classifica sempre assolutamente preoccupante, 26 punti ed è l'ultima in zona salvezza, perché poi ci sono le ultime tre, Livorno 23 punti, Atalanta 22, Siena 21. Questa dunque la classifica, sentiamo una battuta di Marino con Sky. Retrocessione, in questa maniera abbiamo mantenuto un distacco sull'Atalanta di 5 punti, mentre abbiamo allungato sul Livorno, per cui insomma, anzi di 6 punti, per cui era importante fare bene, ci siamo riusciti, sono contento del risultato. Potevamo, alla fine abbiamo avuto l'occasione per chiudere la partita, non ci siamo riusciti, però la squadra ha lottato, ha rischiato poco, e quindi nel primo tempo forse eravamo un po' contratti, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio. Ecco, nel primo tempo come mai contratti? Perché quelle sovrapposizioni sulle fasce dell'Atalanta potevano darvi fastidio? Perché qualche movimento non veniva? O è una questione di mentalità? Giocatori di quel tipo forse non sono abituati a giocare per la salvezza. Ma più che altro è diventato la psicosi delle partite fuori casa che non riusciamo a vincere, quindi siamo partiti veramente contratti, abbiamo avuto le opportunità, le abbiamo create, però certamente potevamo sfruttarle meglio. Ecco, questa è quella di Pepe, nel secondo tempo alla fine c'è stata quella di Sanchez che l'ha data lunga da Samoa, però ripeto, era importante fare il risultato, ci siamo riusciti. Certamente adesso siamo un po' più sereni e possiamo affrontare le altre partite con una certa tranquillità. Questo Marino, dichiarazioni standard da dopogara. Insomma, a me, io sentendo queste frasi fatte banalità continuo a pensare a Mourinho, però questi sono essenzialmente fatti miei. 800240024, Massimo Callegari da Mediaset. Ciao Massimo. Ciao, buona domenica. Buona domenica anche a te. Dunque, io andrei sulle gare di ieri sera, che poi sono il succo di questo weekend, aspettando per l'appunto l'Inter, che a questo punto ha una vittoria di vantaggio sul Milan. Ti dico subito che a me il Milan è piaciuto moltissimo ieri sera, mi è piaciuto moltissimo, forse certamente una delle migliori, se non la miglior partita stagionale, fino alla tre quarti. Da lì in poi tiri in porta nessuno, mancava il giocatore... L'unico giocatore che non può avere un sostituto nel Milan è che è Pato, perché un attaccante con quelle caratteristiche non c'è. Molti dicono che insomma la partita di ieri sera può aver riaperto le speranze verso Manchester, io ci andrei piano. Vabbè, sì, anche perché comunque a Manchester il Milan non parte da 0-0, ma parte con uno svantaggio importante. Poi bisogna capire domani probabilmente se Pato ci sarà e come eventualmente ci sarà, perché... il suo infortunio comunque non solo visivamente ma anche nella sostanza è stato piuttosto pesante. È vero, rispetto alla prestazione di ieri, quello che tu hai detto, anche perché la Roma non era nelle condizioni di alzare il ritmo, perché non è mai riuscita a farlo, ed è quello l'unico modo che hanno le squadre poi che hanno anche qualità tecnica di mettere in difficoltà il Milan. E poi nella parte finale un paio di situazioni, anche più di un paio ci sono state, però Borriello non è riuscito a concretizzarle, Unzelar sì. neanche, quindi insomma lì allora, tiri nello specchio, sono i tiri nello specchio della porta che sono in realtà mancati nel, nel Milan. Sentiamo una battuta di Delio Rossi con Sky. Istintivo, sono un razionale ma sono un istintivo, la squadra secondo me anche oggi ha giocato in maniera seria, meritava di fare il gol prima, invece queste partite poi diventano difficili, ma lo sapevo che sarebbe stato più difficile che a Torino, perché giocavamo una squadra che si chiudeva, più passava il tempo più la loro tattica gli dava dei frutti, e noi siamo stati bravi, abbiamo trovato il momento giusto senza concedere niente, questo è importante. Per i Delio Rossi sono invece di solito dichiarazioni un po' meno al ciclo stile, un po' meno in fotocopia. Non continuo a ripetere uno dei migliori allenatori italiani, dei miei preferiti, ma è chiaro che ognuno ha i suoi, ai suoi pallini. Anche Salvatore da Napoli, che è il primo ascoltatore di oggi. Buonasera. Buonasera, salve. Dica. No, niente, io sono un tifosissimo del Napoli e purtroppo oggi abbiamo perso. Sì. Però non penso che il Napoli sia in un momento negativo. Diciamo che stiamo pagando un po' la fuoriforma di Quagliarella. Da un po' tanto però, perché Quagliarella io in forma non l'ho visto mai in questa stagione, o quasi mai, insomma l'ho visto solo in alcuni tratti. È un intoccabile in questa squadra in maniera anche un po' misteriosa, perché lo si vede chiaramente anche nel che non sta bene, che non è in condizione, anche nei gesti più banali. Ad un certo punto ha preso una palla sulla sinistra, ci ha messo un quarto d'ora per girarsi. Il Napoli con Dennis gioca meglio, e questo insomma mi sembra piuttosto evidente, no? Però è altrettanto chiaro che nelle gerarchie del Napoli Quagliarella gioca e poi ne giocano altri 10, come disse un giorno allenatore dell'Inter a proposito di Ibrahimovic. Non so perché, probabilmente per il prezzo del cartellino, per il costo del giocatore, se no altri motivi in tutta onestà non ne trovo. Continuo a pensare che in valore assoluto, da un punto di vista tecnico, Quagliarella, Lavezzi sia una coppia non ben assortita, una coppia offensiva non ben assortita. Il Napoli gioca meglio con Dennis, gioca Quagliarella e tant'è. I risultati in fondo sono lì da vedere, almeno dal punto di vista del gioco, perché poi per il resto non Napoli sta facendo una splendida stagione rispetto all'organico. Massimo. Ci sono state probabilmente le due partite col Palermo e col Genoa, quelle in casa, pareggiate 0-0, che hanno un po' fermato lo slancio della squadra. Poi Mazzarri, probabilmente sei un po' distratto a star dietro alle trappole di Mourinho, ci è caduto come tanti, e adesso il Napoli ha perso un po' di brillantezza. Probabilmente il Palermo rispetto al Genoa, forse anche un po' alla Samp e sicuramente al Napoli, al di là di alcune individualità, ha un giocatore come Liverani che le altre non hanno e che permette alla squadra anche di rallentare e di cadenzare i ritmi. Genoa, Napoli e spesso anche la Samp vanno bene quando vanno fortissimo, ma non possono giocare a quei ritmi tutto l'anno. Esatto. Ma poi il Palermo, insomma, io credo che vittoria come quella di oggi, soffrendo 1-0 con il Livorno, Rubinho migliore in campo, Livorno che pure ha avuto le sue occasioni, insomma mi sembra che siano le vittorie di oggi quelle che dicono che il Palermo sta diventando grande. Sì, poi già la partita di domenica contro la Juventus aveva dato la sensazione che la squadra sia in grado anche di impostare le partite come fanno le grandi, no? Aspettando il momento buono, capendo quando è necessario anche solo controllare la partita senza affondare, e poi quando la Juventus è calata è stato decisivo Miccoli e non solo, lo stesso Pastore, quindi ha proprio l'atteggiamento e i momenti della squadra che può puntare al quarto posto. Bravissimo. Sentiamo anche una battuta di Mazzarri con Sky. Che anche qualche ragazzo che per qualche motivo non è al top e bisogna recuperarlo. Al di là di questo, credo che peggio di come è iniziata la partita oggi avrebbe di sicuro tagliato le gambe a qualsiasi squadra. Anche oggi, fino all'ultimo, abbiamo fatto delle occasioni clamorose, meritavamo quantomeno il pareggio e abbiamo perso stavolta. Quando meritiamo di vincere, perdiamo. Un periodo ci gira male, è chiaro che bisogna risolvere, insomma, far sì che questi giocatori, alcuni, ritrovino la forma migliore. Così Mazzarri. Certo, Massimo, riflettevo ancora su Quagliarella. Se Quagliarella è un giocatore da nazionale, è un giocatore che ha buone o forse ottime possibilità di andare in Sudafrica. Io non voglio fare una campagna elettorale per nessuno. Però se questo Quagliarella va in Sudafrica e Balotelli sta a casa, io qualche perplessità continuo ad averla. poi Lippi faccia il suo, ne ha diritto, prende uno stipendio altissimo, faccia le sue scelte, prende i suoi rischi. Io parlo soltanto dal punto di vista tecnico. Sì, secondo me il discorso è molto ampio, insomma, parlando anche con chi segue più frequentemente la nazionale, c'è un po' la sensazione, come nel momento in cui veniva convocato Santon, che Lippi non usi, però insomma modelli un po' anche le situazioni su questi due giocatori, cercando di mettere un po' di pressione su Mourinho, considerando che il rapporto fra i due è tutto tranne che un rapporto di stima. E evidentemente i due giovani poi possono subire una situazione di cui non sono responsabili. Dal punto di vista tecnico, in questo momento non c'è discussione, come dici tu. Si può discutere nell'attesa che Balotelli dimostri ancora più continuità nella maturità che in alcune fasi ultimamente sta mettendo in mostra, però se Mourinho si prende la responsabilità di gettarlo in campo come primo cambio contro il Chelsea, a quel punto anche Lippi deve assumersi la responsabilità di portarlo in Sudafrica e di riuscire a gestirlo e di non temere che lui in qualsiasi momento faccia quello che ha fatto ad esempio agli europei con l'Under 21, quando segnò un gran gol con la Svezia e poi si fece espellere dopo due minuti. Sì. Ne parleremo, io ho l'impressione, parleremo anche di questo argomento nel corso delle due ore che ci aspettano. 800 24 00 24. Io prima di salutare Massimo Callegari vorrei rispondere ad un altro ascoltatore, che è Gianni da Parma. Buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo parlare della Juventus, ma relativamente ai brasiliani, perché memoria non penso che non mi inganni, a parte Giulio Cesar ed Emerson, che però non era tanto brasiliano, gli Agnelli non compravano brasiliani. Forse perché hanno dei rendimenti ondivaghi, mi ricordo Ronaldo e tanti altri. Un suo giudizio, vedo che la Juve, insomma, può essere anche questa una chiave di lettura, non l'unica ovviamente. Sì, su cosa? Gianni? Sì, non mi sente? Sì, no, l'ho sentito, una chiave di lettura a che proposito? A proposito del fatto che la Juve ha un rendimento ondivago, un giorno vince, un giorno perde, un giorno gioca benino, il giorno dopo è inqualificabile. Sì. Cioè, è legata anche al rendimento dei vari Felipe Melo, Diego e Amaury. Sì. Nel passato compravano solo stranieri, che ne so, francesi, tedeschi. Sì, sì, sì, sì. È stato un po' un anche se nella storia qualche brasiliano di livello nella storia della Juventus c'è stato. Pochi in realtà, però questa può essere una chiave di lettura, secondo me, anche un po' forzata, in tutta onestà. Però di brasiliani si intende benissimo Massimo Callegari, che il calcio sudamericano lo conosce da molti anni. Massimo, troppi brasiliani per la signora? Ma quelli di quest'anno sicuramente non sono stati continui, però l'anno scorso Diego aveva una costanza di rendimento eccezionale al Werder. Poi recentemente ho avuto la possibilità di seguire una partita di Bundesliga, era un po' che non mi capitava, ho visto che, ho notato sinceramente che c'erano tanti di quegli spazi che insomma mi si è acceso un po' la lampadina, ho capito forse per quale motivo Diego riusciva ad avere tutta questa qualità costante, perché aveva degli spazi che qui non ha. Poi al di là di questo, tra tutti gli esempi che il nostro amico Gianni poteva fare, quello di Ronaldo sinceramente mi sembra il meno adeguato. Un po' forzato, eh? Un po' tanto, sì, sì. No, ma detto questo Massimo, insomma, Diego mi sembra che stia ancora studiando, però mi sembra che con Zaccheroni stia rispondendo un po' meglio alle interrogazioni, e anche la partita di ieri lo dimostra. Felipe Melo rimane una stagione disgraziata, è un giocatore che è stato tra virgolette sposato da Dunga, che tra l'altro oggi mi pare abbia annunciato che dopo il mondiale lascerà il Brasile. Felipe Melo, titolare fisso della selezione, non bellissima da vedere, ma senz'altro squadra da battere ai mondiali. Insomma, aspetterei nel bocciare i brasiliani della Juventus, compreso Amaury, che non ho ancora capito se è brasiliano o italiano. Al momento brasiliano, poi vediamo. Neanche lui forse. Non lo sa bene neanche lui. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi, buona serata, buona domenica. Grazie Massimo Callegari, ci fermiamo un attimo, subito dopo parliamo con Marco da Genova e con altri ascoltatori naturalmente. 800 24 00 24, vi aspetto qui. Immaginate di svuotare casa vostra, di liberarvi di mobili, di libri, di elettrodomestici, dei vestiti. Cercate di pensarla senza quadri alle pareti, senza mensole, senza soprammobili. Ecco, questo è quello che sto facendo da qualche tempo. Vendo tutto. Tutti i giorni alle 16 su Radio 24. Vendo tutto. Metef Foundec, vetrina internazionale degli operatori dei metalli, tecnologia, innovazione e business. Brescia, Centro Fiera del Garda, Montichiari, 14-17 aprile. Metef.com. Non mi sposi più. Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia con il servizio rapporto classificato ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un click. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Un crepaccio ha inghiottito i libri contabili! Il terremoto in borsa! Non è colpa mia, lo giuro! Le scuse sono finite. Nuova Skoda Superb Wagon da 20.590 euro. L'eccellenza è ancora più accessibile con Solution, il noleggio a lungo termine di Skoda. Oggi! Risate assicurate con Giorgia Mildred. In edicola tutti gli episodi con la coppia più graffiante e divertente della TV anni 70. Nessuno capirebbe perché ti ho sposato. Giorgia Mildred. In ogni DVD tre episodi completi. Da Hobby and Work. Mildred! Se la tua azienda ha fatto del rispetto ambientale una leva strategica, partecipa al Premio Impresa Ambiente, l'award italiano per le imprese sostenibili. www.premioimpresaambiente.it. Il premio si rivolge alle aziende che puntano sulla sostenibilità per essere competitive in Italia e nel mondo. Premio Impresa Ambiente è in partnership con Ecopolis, manifestazione dedicata al futuro delle città e alla green economy. Invia la candidatura entro il 25 marzo. I vincitori rappresenteranno le eccellenze italiane all'European Business Award for the Environment. www.premioimpresaambiente.it. Nelle stazioni Agip aderenti è arrivato You and Danny con premi sempre più ricchi e grandi novità. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Buonasera, nella giornata di lunedì migliora al nord con cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni. Tempo in gran parte soleggiato anche sulle regioni centrali, solo sull'Appennino avremo nuvolosità a tratti più compatti con rischio di isolate brevi e deboli nevicate. Mattina insiste ancora qualche pioggia in Sicilia, in Calabria e nel Salento, ma la situazione tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio. Peggiore invece Sardegna, raggiunta una nuova perturbazione dove avremo piogge diffuse in serata. Le temperature massime sono attese in calo al centro e sulla Sardegna, infine soffieranno venti moderati o forti di bora e grecale quasi su tutti i mari. Con questo è tutto, per maggiori informazioni meteo.it. Aprire sportello, prendere cartuccia, togliere protezione. Ma lo sapevo, facendo attenzione al toner che potrebbe fuoriuscire. Certo, dillo più tardi. Mettere cartuccia, incastrarla. Sì, se si incastrasse la cartuccia. Con le stampanti e multifunzione a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Il Solid Ink è facile da inserire, da il 90% in meno di scarti di una normale laser. E se rottami il tuo usato entro il 30 aprile, Xerox ti dà fino a 300 euro di rimborso o 450 alberi piantati. Per condizioni e offerte vai su xerox.it/promo. 45 anni di missioni speciali, 6.000 diverse identità. Ora è pronto per un nuovo incarico. Transit, socio inseparabile. For Transit Connect TDCI a 9.500 euro, da non perdere. Oggi puoi fare la spesa e tornare a casa. Oppure puoi fare la spesa, pagare con Visa, giocare le ricevute di pagamento per vincere un TV LCD Sony Bravia 52 pollici al giorno e a estrazione un viaggio ai mondiali FIFA 2010 in Sudafrica per vedere una partita o la grande finale. Gioca con Visa fino al 25 aprile su visaitalia.com o chiama lo 0543 465055. La vita va presa con Visa. Visa è partner ufficiale FIFA. Montepremi 239.900 euro. Regolamento su visaitalia.com. Metti gli occhiali da lontano, togli gli occhiali da lontano, metti gli occhialini da vicino, togli gli occhiali da vicino e metti quelli da... metti e togli, e metti e togli, e togli e metti e... Per vedere bene da lontano e da vicino, scegli un solo paio di occhiali con lenti progressive Salmoiraghi e Viganò. Oggi li trovi a 199 euro. Vieni a provarli, soddisfatti o rimborsati. Salmoiraghi e Viganò, dove vivono gli occhi. È un dispositivo medico CE, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso, autorizzazione su domanda del 26608. A tempo di sport. Marco da Genova, grazie per l'attesa. Buonasera. Grazie a voi di farmi parlare. Volevo chiedere un suo parere. Sì. Lei non crede che l'avvento di Mazzarri a Napoli, certo un ottimo allenatore, ha dei i risultati che parlano per lui, ma non crede che abbia aumentato in modo esponenziale il suo narcisismo, visto che tutte le interviste che rilascia, quando perde deve vincere, quando pareggia deve vincere, quando vince deve vincere con 3-4 gol di scarto. Io ricordo anche dei risultati ottenuti, tipo il pareggio col Milan con 2 gol nel recupero, sì, certo, che hanno contribuito a fare comunque la sua serie di risultati utili consecutivi. Quelli non li ricorda mai quando fa le interviste. Lei è doriano? No, io sono genuano. Ah. E Mazzarri lo stimo, sì, come allenatore, perché secondo me è molto preparato e molto bravo, però devo dire che ogni sua intervista è un po', narcisista, a livelli sì, di narcisismo. Senti, estremo, diciamo, un po' di acqua, un po' di acqua la tira al suo mulino Mazzarri, però in tutta onestà ha dato al Napoli qualità che prima non aveva, perché anche lei ha ricordato quei 2 gol in rimonta sul Milan. Il Napoli ha fatto un sacco di rimonte in questo campionato, vuole anche dire carattere. Ci sono delle situazioni che con Mazzarri ritornano, come la, dico cronica, ma evidente difficoltà delle sue squadre, valeva anche per la Sampdoria nel trovare in certi momenti della stagione nel trovare il gol, vale anche per questo Napoli con il dubbio, l'interrogativo Dennis che fatalmente ritorna. Non so se parlerei di narcisismo, insomma, sono dichiarazioni, ripeto, del dopo partita ci possono stare. Poi non mi pare che oggi abbia detto Napoli meritava di vincere questa gara, io non l'ho sentito perlomeno. Saluti e ringrazio invece Luca Calamai, penna importante della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Senti, io volevo analizzare con te uno dei temi più interessanti di questo weekend, che è l'inversione di tendenza di Prandelli. Prandelli è sempre stato uno dei più bravi in assoluto nel vivere in maniera sportiva e signorile anche dopo partite più difficili. Adesso ha cambiato partito, evidentemente. È uno di quelli, forse è quello che più di tutti gli altri guida il popolo della Moviola. Sì, nel caso di Prandelli, che resta una persona, al di là di un tecnico bravissimo, una persona straordinaria, non puoi dimenticare la somma di episodi negativi che hanno colpito la Fiorentina in queste ultime partite. Partiamo. Ti faccio 3 riferimenti così chiarissimi, sì, un crescendo rossiniano. Siamo partiti da il gol con un ettaro di campo di differenza di Close in Coppa dei Campioni, un errore talmente gigantesco che però può vanificare non solo un anno di lavoro, ma puoi immaginare poi una realtà come Firenze che non vive abitualmente in Champions, un tradimento, un grandissimo tradimento. Poi dopo si prosegue con l'episodio contro il Milan, che è altro episodio che oggettivamente crea grande imbarazzo, grande fastidio, che alimenta una sofferenza di tutto un mondo, no? Perché Firenze va sempre vissuta come un mondo, un piccolo mondo a sé stante, nel bene e nel male, per carità di Dio, ma che riesce a trasmettere grandi tensioni, grandi partecipazioni nel bene e nel male. Ieri a quel punto te allenatore sei oggettivamente sui nervi e quindi ogni episodio non è che è sui nervi come te tutta la squadra, perché la porti in quella situazione, perché esatto, è in questo modo che io la leggo. Guarda, io ti devo dire che sono rimasto sorpreso dopo il primo gol di Diego, che la Moviola ha oggettivamente dimostrato che dovrebbe essere regolare, ma dopo averla vista 10 volte, sì, no? E il timore di vedere una squadra che dopo quell'episodio impazzì, perdesse la testa, era reale. Invece sono rimasto sorpreso comunque della serenità che ha trasmesso, che ha retto la squadra. Poi c'è l'episodio del rigore di Cherezo, ma se noi ci fermiamo all'episodio di ieri non diamo una realtà, rischiamo di perdere il senso anche dell'amarezza di Prandelli e delle parole. Guarda, te sottolineavi il discorso della Moviola, ma il sentire Prandelli dire a velocità normale il gol di Diego sembrava in fuorigioco, non è da Prandelli, vuol dire che lui, appunto, ha esaurito il bonus di sopportazione e è trascinato in questo senso di vittimismo che ormai ha coinvolto un po' tutta una città. E questo è francamente un peccato, anche perché rischia di... La Champions League è ovviamente un sogno, è evidente che la Fiorentina non può vincere la Champions League, anche se comunque vada, ha fatto un cammino splendido, è ancora in corsa con un organico probabilmente non all'altezza dal punto di vista numerico anche in Coppa Italia. insomma un sacco di impegni, però l'impressione che ho io al netto di tutto questo è che con 35 punti gli stessi di Chievo e Bari, e tolti tutti gli episodi, gli errori arbitrali, il pulviscolo che vogliamo, rischia di essere una stagione sulla quale sarà il caso di interrogarsi. Questo progetto sta continuando? La Viola sta continuando a crescere o questa crescita si è fermata? Se si è fermata, perché? Guarda, la partita chiave della Fiorentina sarà la gara di ritorno con l'Inter della semifinale di Coppa Italia. La partita chiave per due motivi molto semplici. Il primo è perché nel caso in cui la Fiorentina accedesse alla finale, al 99% avrebbe già acquisito il diritto di partecipare alla prossima Europa League, perché immagino che la Roma sarà l'altra finalista. E il secondo motivo perché allungherebbe la sua stagione fino ai primi di maggio, alla finale dell'Olimpico, immagino con 15-20 mila tifosi della Fiorentina al seguito, con la possibilità magari anche di vincere la Coppa Italia e di dare a questo ciclo un senso compiuto, no? Quante volte abbiamo sentito parlare da Prandelli a Girardino, a Monteolivo, della necessità di dover lasciare un qualcosa in ricordo, perché è vero che le qualificazioni Champions portano soldi, prestigio, però poi è la bacheca, no? che ti lascia un valore storico a un ciclo. Quindi io in questo momento, se mi chiedi quale sarà il futuro della Fiorentina, non ti so rispondere, perché secondo me non lo sa nemmeno la Fiorentina. Sì, anche se prova a interpretare questi elementi. Prova a interpretare le tue parole. Tu mi dici, mi parli di ricordo, mi parli di dare al ciclo un senso compiuto, e leggo una certa convinzione. Scusami se faccio lo psicologo, La convinzione che poi è la mia, cioè che questo ciclo con Prandelli sia un po' arrivato al capolinea, anche se poi della Valle di Giovinazzo ce l'abbiamo. Io ho scritto che la vittoria in Coppa Italia paradossalmente allontanerebbe Prandelli da Firenze. Sì, certo. Perché Prandelli riterrebbe concluso il suo patto d'onore con una città, lascerebbe un trofeo che poi tutto sommato, insomma, per non andare tanto lontano nel tempo, è quello che ha abbinato il ciclo Batistuta Costa. Una Coppa Italia per la Fiorentina comunque rappresenterebbe un qualcosa di importante, e quindi io penso che sia molto più facile per Prandelli chiudere con una vittoria che chiudere con una stagione che in teoria, o anche in questo momento in pratica, porterebbe addirittura la Fiorentina fuori dall'Europa, non solo fuori dalla Champions ma dall'Europa. Prima di salutarti, una battuta invece sulla Juventus. Prima sentivo un ascoltatore parlare di Juventus con troppi brasiliani, eccetera. Io dalla gara di ieri sera, ma non solo dalla gara di ieri sera, noto che Diego comincia a capirci qualcosa di questa squadra, di questo campionato. Insomma, vedo un giocatore in crescita e mi sembra già un primo punto importante. Sì, io penso che nel momento in cui la Juventus avrà ritrovato i suoi equilibri, e non so se ce la farà quest'anno, perché ovviamente anche loro hanno tanti problemi da risolvere, ma Diego funziona con due attaccanti, poi paradossalmente le cose più belle le ha fatte da seconda punta, però quello che ci ha insegnato il Diego di tedesco nel Werder è che la sua forza, lui diventa importante, essendo un giocatore anche di sacrificio, non solo di qualità, quando lui può dialogare con due importanti, quando ha lo spazio per arrivare da dietro, quando spesso si fa risucchiare dal centrocampo per poter giocare palla. Lui ha bisogno, è uno di quei fantasisti che hanno bisogno di avere la palla tra i piedi, molto spesso. Però non mi pare che sia quello il problema, non sono i brasiliani il problema della Juventus, sicuramente. Credo che il problema sia magari siano state alcune scelte di mercato con giocatori ormai in fase finale della carriera, non a caso l'infortunio di Chiellini, che rischia di tenere fuori questo giocatore per un mese, ieri ha tolto il sorriso alla Juventus, perché se te immagini questa difesa senza Chiellini, non c'è dubbio. L'allarme, insomma, l'allarme è serio. Ma non c'è dubbio. Luca, grazie, buon lavoro. Ciao grazie. A tutti. Grazie a Luca Calamai. Subito dopo il traffico parlerò con Rocco, provincia di Bari, Giovanni, provincia di Milano, tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire all'800240024. Strade in diretta. Un incidente avvenuto da pochi minuti sta causando delle code lungo la 9 Lainate Chiasso tra Origio e Turate verso la Svizzera. Disagio alla circolazione sulla Firenze Pisa Livorno. Ci sono code per lavori tra Ponte d'Arest e la diramazione per Pisa verso Livorno e tra il bivio con la 12 Genova Livorno e Lavoria verso Firenze. Per il traffico intenso poi 2 chilometri di coda anche tra Cascina e Navacchio verso Pisa. Il traffico è in aumento sul resto dei percorsi. Ci sono i primi rallentamenti verso la capitale tra Roma Nord e Sette Bagni sulla 1. Per quanto riguarda dalle condizioni meteo, continua a nevicare sul basso Piemonte, in particolare lungo la 6 Torino-Savona. Prudenza alla guida e catene a bordo, anche se non si segnalano particolari disagi. Nevica anche sulla 15 della Cisa tra Fornovo e Pontremoli e debolmente sull'autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. Piogge sparse sono invece segnalate al sud tra Calabria e Sicilia e prudenza anche per il vento forte sul Piemonte orientale lungo la 26 dei Trafori, sulle autostrade toscane ed in Campania. È tutto per il momento, Strade in Diretta torna tra circa 30 minuti. Promo 24. Il risparmio energetico comincia dal riscaldamento degli ambienti in cui si vive e per risparmiare da subito c'è una soluzione che unisce i vantaggi della caldaia a quelli della pompa di calore. È la pompa di calore ad assorbimento a metano Robur che utilizza fino al 40% di energia rinnovabile. Con Robur si riscaldano case, condomini, scuole, aziende, hotel e spazi commerciali in modo efficiente e nel rispetto dell'ambiente. Robur è inoltre un ottimo investimento perché non solo permette di usufruire delle detrazioni fiscali del 55%, ma utilizzando energie rinnovabili fa guadagnare classi energetiche all'immobile. Documentarsi conviene. www.roburperte.it. Tempo di sport. A beneficio dei tifosi viola, un po' depressi notizia dalla Germania. Allora, Bayern Monaco battono le agenzie, scrivono le agenzie proprio freschissime, insomma, alle prese con l'emergenza difensori. Durante la gara di ieri con il Colonia si è fatto male anche un altro difensore, il 19enne Diego Contento, che dunque raggiunge l'infermeria De Michelis operato al volto dopo Germania-Argentina. A Firenze potrebbe giocare un 17enne, si chiama David Alaba, che ha esordito con il Colonia ed è diventato il più giovane esordiente della storia del Bayern in Bundesliga. A terzino sinistro dovrebbe giocare Pranic, quindi emergenza stretta per una difesa che rischia di essere davvero verdissima a Firenze, mentre davanti le cose vanno meglio perché Robben si è ripreso dall'influenza, dunque parteciperà alla trasferta, ci sarà ovviamente anche Ribéry. Rocco, provincia di Bari, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per avermi permesso di intervenire in trasmissione. Grazie a lei, dica. Volevo parlare del Napoli. Io in questo momento sono appena uscito dallo stadio Renato Dallara. Praticamente questa squadra ci hanno illuso di poter andare in Champions League con questa squadra. Io non ci ho mai creduto veramente. Questa squadra manca un attaccante di razza capace di andare in doppia cifra. Poi non abbiamo una panchina all'altezza per poter puntare ad un obiettivo che è quello della Champions League. Quindi chiedo a tutti, agli addetti ai lavori, anche ai calciatori del Napoli, di fare un passo indietro, di rivedere le dichiarazioni che hanno fatto in passato parlando di questa competizione che al momento per la rosa che abbiamo non è assolutamente all'altezza. E sì. Poi volevo dire un'altra cosa, De Laurentiis, che molte volte a lui piace apparire in televisione, dice alcune cose che a noi tifosi non piacciono, tipo che i nostri talenti li cresceremo in casa. Una piazza come Napoli, che porta 60.000 spettatori al San Paolo, ha anche il diritto di avere un giocatore con un nome, con un passato, con un certo modo di giocare. Ma mi sembra che ci siano, insomma, mi sembra che la dimensione del Napoli attuale sia quella corretta. Se poi lei dice non ci ha mai creduto, quindi lei non è uno di quei illusi, delusi, mi fa piacere, perché non era il caso. Questo Napoli ha una, secondo me, una classifica che specchia il suo valore in questo momento, non è da Champions League, è una squadra che ha dei difetti, è una squadra che, lei dice, insomma, fa qualche appunto a De Laurentiis. Io direi che Quagliarella qualche soldino è costato, che poi non stia rendendo per quello che è costato, che poi stia facendo una stagione molto in ombra, e questa è un'altra storia. Però, insomma, ripeto, il Napoli vale questa classifica. Se poi qualcuno si era illuso, al di là delle dichiarazioni che lasciano sempre il tempo che trovano, il giocatore, allenatori, eccetera, questo Napoli guadagnasse la Champions League, sarebbe un uovo fuori dalla cesta. Per il resto è una squadra, lei ha ragione sul fatto che manca un attaccante che garantisca un Monterreti costante in doppia cifra. Questo è vero, ma questo è vero da molti anni. Io mi limito a notare che, ripeto, Quagliarella e Lavezzi secondo me sono una coppia offensiva non ben assortita, e mi limito a notare che Napoli gioca meglio con Dennis in campo, mi limito a notare che Dennis non è certamente un centravanti da 20 gol. Questo è quanto. Giovanni, provincia di Milano, salve. Buonasera. Scusatemi se mi permetto di tornare nuovamente sul trito discorso Lippi Barotelli barra Cassano. Si permetta quello che vuole. Un solo episodio vorrei ricordare, insomma, agli ultimi mondiali fa giocare De Rossi, che alla prima partita si distingue per un episodio non certo sintomo di grande maturità e viene espulso per una gomitata, sì. E poi lo fa giocare premiandolo la finale. Sì. Adesso invece non vuol far giocare Balotelli, che sembra che debba maturare nel giro di 20-30 anni prima di essere degno della nazionale. Non lo so, la vogliamo vincere questo mondiale o vogliamo così inseguire vincere tanto. Alberoni anche come dire per l'ennesima volta? Vincere tanto, Giovanni. Io torno a ripetere, questa squadra secondo me somiglia sempre di più a quella dell'86, no? Quella dell'86 riduce da un mondiale vinto, con diversi debiti di riconoscenza che Berzot si sentì in dovere di pagare, senza rinnovare una squadra che aveva evidentemente esaurito un ciclo con due mondiali, 78-82, vincendo in maniera meravigliosa. Poi il ciclo era finito, però andammo in Messico ancora con l'ombra di ad esempio Rossi e Cabrini, con l'ombra di giocatori che facevano parte di quella spedizione. Ecco, in Messico però Berzot portò Vialli, che era il giocatore emergente, poi lo fece giocare, una situazione simile a quella di Balotelli. Insomma, io dico solo una cosa: Balotelli è certamente il futuro di questa nazionale, il futuro potrebbe anche cominciare ora, non sarebbe male. Vialli andò in Messico nell'86 e da lui si ripartì per quello che venne, poi con Vicini, con Italia 90, eccetera. Io francamente non vedo, vi dico la verità, una motivazione tecnica per non portare questo giocatore ai mondiali. Poi ripeto, Lippi ha tutti i titoli guadagnati sul campo e guadagna molti soldi sempre sul campo per fare queste decisioni, assumersi, per prendere queste decisioni e assumersi le responsabilità del caso. Ripeto, siamo in pieno clima elettorale, eravamo in clima elettorale anche in autunno, poi Cassano venne trombato alle primarie, come ricordate, e adesso il referendum definitivo è Balotelli sì, Balotelli no. Da un punto di vista tecnico non c'è nessun motivo per non portare Balotelli ai mondiali, anche per caratteristiche attuali, lasciatemi dire, del giocatore. È un giocatore che, lo sta dimostrando nell'Inter di Mourinho, insomma, entra mezz'ora, entra un quarto d'ora, come con il Manchester United, con il Chelsea, scusate, entra un tempo e spacca la partita, quantomeno cambia la faccia della partita. Mai come ad un mondiale c'è bisogno di giocatori con queste caratteristiche, a mio parere. Poi non so, fate voi. Andrei a fare un salto, visto che stavamo parlando di Napoli, farei un salto a Bologna da Emilio Butero per chiedere una conferma quanto io ho visto in TV, cioè Napoli che è partito malissimo anche oggi, ha la rimonta nel DNA, però anche diversi problemi offensivi, e Quagliarella mi sembra davvero una stagione disgraziata, Emilio. Sì Carlo, sono d'accordo con la tua disamina. Il Napoli oggi ha provato, soprattutto nel corso della ripresa, a metterci il cuore, ma questo non è bastato. Quagliarella, la sua prestazione è stata un po' in ombra, come del resto un po' tutta quella della formazione partenopea, soprattutto nel corso dei primi 45 minuti di gara, quando il Napoli è riuscito comunque a rimontare immediatamente l'1-2 del Bologna. Ma io sono in compagnia del collega Alberto Polverosi, inviato del Corriere dello Sport, al quale chiedo. Alberto, si parlava del Napoli, 8 punti nelle ultime 8 gare, davvero pochissimi per sperare per avere delle ambizioni europee, sei d'accordo? Sì, erano tantissime all'inizio della gestione Mazzarri, sono diventati poche. Adesso veramente il Napoli paga anche la grande corsa fatta all'inizio per recuperare terreno. Oggi la partita è stata, poteva pareggiarla senza problemi, così come poteva perdere anche per 3-1. È stata una partita aperta, strana, perché i primi tre tiri sono stati tre gol. Il Napoli l'ha rimonta stavolta, non è riuscita, probabilmente per colpa, se dobbiamo trovare una colpa, per colpa dei giocatori più forti, dei migliori, di Hamsik, di Lavezzi e di Quagliarella, che non hanno reso quello che dovevano rendere. Ecco Carlo, non so se hai qualche domanda dallo studio per solo, guarda, solo una sottolineatura sul momento di stagione che sta vivendo il Bologna, che oltre a fare punti, oltre ad aver raggiunto il Parma, oltre ad essersi portato piuttosto lontano dalla zona salvezza, mi sembra stia giocando anche molto bene. Sì, è vero, verissimo. Oggi ha fatto una grande partita, secondo me. Grande partita se consideriamo lo spessore tecnico, il diverso spessore tecnico che esiste fra le due squadre. E il Bologna ha giocato al massimo Raggi, ha giocato al massimo le due punti che hanno segnato e lavorato molto per la squadra. È una squadra, secondo me, che risponde bene alle idee del proprio allenatore. Mi pare che Colombo abbia fatto un ottimo allenatore, un grande lavoro nel periodo in cui da quando è diventato allenatore del Bologna, e quindi probabilmente i complimenti vanno a lui. Certamente, grazie ad Emilio Buttolo, grazie anche ad Alberto Polverosi, corriere, collega del Corriere dello Sport. Tempo di sport. Stavo leggendo messaggi a agenzie nel corso del GR. C'è Lippi che dice che per Fiorentina e Milan l'impresa è possibile, che è in fondo una banalità, perché non c'è sport al mondo in cui tutto sia possibile come il calcio. Da lì a dire che è probabile, ne passa, anzi secondo me è estremamente improbabile, soprattutto per il Milan, ma vedo dura anche la partita della Fiorentina, tutto considerato, e considerate anche le condizioni con cui gli uomini chiave della Fiorentina si avvicinano alla partita con il Bayern. Cito solo la partita di Gilardino, di Jovetic, di Vargas di ieri sera contro la Juventus. Quanto ai messaggi, c'è ad esempio Mauro che scrive: a me Balotelli sta molto antipatico, ma lo porterei ai mondiali sempre, ti farei convinto per lui, perché è il tipo di giocatore che quando entra in campo mette comunque in ansia gli avversari per quel mix di potenza, tecnica e sfrontatezza che hanno in pochi. Condivido quanto scrive Mauro. C'è invece Anita che scrive: mon Dio, come vorrei essere Balotelli, tutte le radio e le TV che parlano di me. Mia cara, telefoni 800 24 00 24, intervenga, se non di lei parleremo senz'altro volentieri con lei, come volentieri parliamo con Francesco, Stefano e Valerio, che sono già in linea. Francesco da Firenze, buonasera. Buonasera, dottor Gento. Dica. Vi è una questione importante che condiziona il futuro della Fiorentina. Sì. E spiega anche un po' quello che è accaduto nell'ultimo anno, sì, alla Fiorentina. È una questione complessa, ma cerco di assumerla in poche parole. Ah. È il fatto che i Della Valle, che sono intervenuti, che intervennero generosamente per rafforzare la Fiorentina, sono anche interessati al progetto della cittadella, sì, sportiva. Sì, sì, lo sappiamo, conosciamo questa vicenda. Ci fu una specie di patto tra gli amministratori della città e della valle, uh-huh, e credo che avrebbero potuto realizzare un progetto grandioso e anche complesso, che è quello della cittadella. Sì. Ora in questo momento si naviga nell'incertezza, sì, e quindi della valle non hanno una prospettiva certa di poter realizzare il progetto. Sì, e quindi, essendo delle persone concrete, stanno facendo i loro conti. No, lo sappiamo bene, dietro questa vicenda è ben nota, sta sullo sfondo, è importante, è ingombrante nel futuro della Fiorentina, e in questa chiave vanno lette anche quelle dimissioni di Della Valle dalla presidenza della Fiorentina, poi rientrati. Insomma, sappiamo bene che c'è questa vicenda sullo sfondo, ma insomma, questo è, non so, potrà influire sul futuro societario. Io sto parlando di questa squadra, e questa squadra che sul campo ha una classifica assolutamente deficitaria, e mi chiedo, il progetto Fiorentina sul campo, progetto di crescita di questa squadra molto giovane, molto futuribile sul campo, si è arrestato? Ha necessità di una ripartenza, ha necessità di cambiare qualcosa, magari l'allenatore, che pure è bravissimo, Cesare Prandelli? Questo è l'interrogativo legato alla squadra, legato al campo. Quanto alla cittadella dello sport sono, io credo, discorsi differenti, anche se reali, ripeto, e si conoscono bene. Stefano, provincia di Roma, buonasera. Buonasera, senta, volevo dire una cosa: questa Roma può ambire al secondo o al terzo posto? La ringrazio. Estremamente sintetico, secondo o terzo posto, certamente può ambire al secondo o al terzo posto. io credo che alla fine si dividerà la seconda poltrona, si contenderà fino in fondo la seconda poltrona al Milan. Mi sorprenderei abbastanza se il quarto posto non finisse in mano alla Juventus e magari Palermo riuscisse a portare a compimento questa impresa di mantenere il quarto posto fino in fondo, come secondo me meriterebbe ampiamente, almeno fin qui e fino a questo momento. La Roma, per aggiungere, ma poi torniamo sul discorso di Roma-Milan di ieri sera, secondo me la Roma ha finito la benzina, ma cosa anche comprensibile. Sono stati fatti diversi conti in questo periodo, uno dei quali era che nelle ultime 16 partite, al netto di quella di ieri sera, poi aspettando l'Inter fino a ieri, insomma la Roma nelle ultime 16 gare aveva fatto 7 punti in più dell'Inter. Questo discorso faceva il paio con quello del Milan, no? Tolti i due derby, che però secondo me sono quelli che fanno la differenza. Ne aveva fatti due in più dell'Inter. Io credo che questa Roma abbia finito la benzina, ma mi sembra che si sia capito da un po', non dalla partita di ieri. Ricordo un'Europa League in cui la Roma è finita fuori con il Panathinaikos e la Roma ci teneva molto giustamente a quella competizione. Ricordo le ultime partite, il pareggio rocambolesco con il Napoli domenica scorsa, la domenica precedente quell'1-0 stiracchiatissimo in casa con il Catania. Quindi ho l'impressione che la Roma sia davvero un po' con il serbatoio vuoto dal punto di vista delle energie. Valerio da Palermo, buonasera. Buonasera. Dica. Ecco, io volevo parlare del Palermo, l'ha citato prima. Tutti si parla di Palermo, in Champions, si gioca al quarto posto. Andiamoci piano perché Juventus secondo me si sta riprendendo. Sampdoria zitta zitta è là dietro. E poi alla fine il Palermo in prima partita gliela risolto i Niccoli, cioè parlando chiaramente, gliela risolto i Niccoli, insomma, ci avremo un po' piano, magari l'Europa League sì, ma Champions no. Anche perché ho notato che la parola Champions League ci porta un po' sfiga. Sì, porta sfiga al Napoli, ma insomma Valerio fa parte del gioco, insomma. Fa parte del gioco ed è anche giusto così. Non conviene strombazzarla troppo. Lei dice le ultime partite già risolte Miccoli, che peraltro fino a prova contraria è per l'appunto un giocatore del Palermo. E io invece dico, ribadisco quanto detto, cioè sarei sorpreso se alla fine della stagione, a metà maggio, la Juventus arrivasse quinta e il Palermo quarto. Sarei onestamente sorpreso, lo meriterebbe, ma io dico che proprio vittorie come quella di oggi sono un indicatore del fatto che il Palermo sta crescendo, perché queste sono le partite, l'ha vinta come una grande squadra, inutile stare lì, contro Livorno che ha giocato bene, con Rubinho, l'ex Rubinho migliore in campo, comunque migliore del Livorno certamente. Un gol nel finale di Miccoli, un gol cercato, tante occasioni costruite, sempre grande attenzione, sono le partite che indicatore del fatto che comunque il Palermo sta crescendo. Andiamo a Palermo, Giovanni Di Marco, buonasera. Ciao, buonasera Carlo. Sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordissimo con te. In settimana Liverani ha detto qualcosa, insomma, che mi ha colpito per la sua efficacia. Ha detto: se non vinciamo con il Livorno, vanifichiamo il successo di Torino. Ed era vero, perché è una squadra che vuole ambire a traguardi ambiziosi, che sia Champions, che sia Europa League, non può ovviamente permettersi di lasciare punti per strada contro le più piccole. A maggior ragione, insomma, se il sogno si chiama Champions. E oggi il Palermo non ha concesso praticamente nulla al Livorno, se non un calcio d'angolo tirato direttamente in porta da Mozart con Sirigu, che insomma ha deviato ulteriormente in corner. Ha costruito parecchie palle gol nonostante Livorno giocasse con 10 giocatori dietro la linea della palla, perché di fatto l'unico attaccante di ruolo era Lucarelli quando non è entrato Daniele Vicius, e alla fine ha trovato il gol. Rubinho, come dicevi tu, insomma, è stato il migliore in campo, ha compiuto 3 interventi prodigiosi qua a Palermo. Rubinho lo ricordavano per le tante indecisioni, anche qualche papera ad inizio campionato, è costato parecchi punti al Palermo Rubinho. Poi l'esplosione di Sirigu, Rubinho che ha preferito trovare spazio al Livorno, ricordiamo tra l'altro che è in prestito, a fine stagione rientra a Palermo, però nonostante ciò, insomma, non è riuscito a dare un punto alla sua squadra grazie al gol di Miccoli. Poco fa sentivo l'ascoltatore, Carlo, se posso permettermi, certo, Valerio, che diceva le partite gliela risolte Miccoli. Beh, Miccoli è la punta di diamante di questo Palermo, e quando ci sono partite di questo tipo così difficili con squadre così chiuse, sono i giocatori come Miccoli o come Pastore che risolvono la questione. Senti, per chiudere, Carlo, se ho 30 secondi ti volevo dare qualche numero. Sì. È il 22esimo risultato utile consecutivo del Palermo al Barbera. Ha perso l'ultima volta lo scorso 1 marzo il 4-0 nel derby famosissimo col Catania. E da allora, insomma, solo vittorie e qualche pareggio. È l'ottava vittoria di fila in casa tra Coppa e Campionato. Una in Coppa e 7 in Campionato, tutte con Delio Rossi. E ha fatto 14 punti in più nel secondo tempo rispetto al risultato maturato nel primo tempo, e questo è un altro dato secondo me molto indicativo, perché è una squadra che significa che è anche matura, che cerca il risultato con costanza, non si lascia prendere dalla frenesia e ha anche gamba in questo senso. E per chiudere, insomma, ti do anche due numeri del Livorno: 2 punti nelle ultime 8 partite, 4 sconfitte consecutive. Cosmi oggi festeggiava, tra virgolette, festeggiava perché non ha nulla, insomma, da festeggiare. La 500esima presenza in carriera da allenatore, ma gli è andata male per questa ennesima invenzione di Niccoli, che è arrivato a quota 10 in classifica marcatore. Perfetto, grazie Giovanni Di Marco. Mi sembrano numeri molto significativi, soprattutto quelli relativi al Palermo, che spiegano diverse cose. Traffico. Strade in diretta. Ci sono code per un incidente sulla 9, la Lainate Como Chiasso, in direzione della Svizzera tra Origio e Turate. Si è ribaltata un'auto in prossimità dell'incidente, si viaggia su una sola corsia. Lo stesso incidente causa rallentamenti in direzione opposta, quella in direzione Lainate Milano. Oltre che intorno a Milano, il traffico è in deciso aumento intorno a tutte le grandi città. Sul Piemonte occidentale, tra Torino e Cuneo, continua a nevicare. Una debole nevicata è in atto anche sugli Appennini tosco-emiliani. Piove forte invece sulla Sicilia orientale. Sono i lavori a condizionare la viabilità sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ne torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Un'analisi recente ha evidenziato come la distanza media percorsa in auto giornalmente ha subito un incremento di quasi l'80%. Per questo i professionisti che guidano per lavoro hanno bisogno di un'auto confortevole ma dalle prestazioni sportive. Audi propone il nuovo allestimento Sport Edition Plus, proprio per combinare l'eleganza di A6 con la sportività tipica di Audi. L'allestimento Sport Edition Plus contiene i pacchetti S-Line e S-Line Exterior, il volante multifunzionale RS6, i cerchi in lega da 19 pollici e la calandra in nero lucido. Inoltre, fino al 31 marzo, è inclusa nel prezzo Audi Extended Warranty, che consente di guidare Audi A6 senza preoccupazioni per 2 anni oltre al termine della garanzia di legge o fino a 120.000 km. Informazioni su www.audi.it. A tempo di sport. Dunque, Carlo da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, non sono riuscito a sentire bene, probabilmente qualcuno mi ha anticipato telepaticamente. Sì. Io volevo semplicemente richiamare l'attenzione sua, di chi capisce di calcio, come certamente anche il nostro CT della Nazionale. Cassano aveva 1 miliardo di motivi per poterlo mettere, diciamo, ai bordi di una Nazionale, ma Niccoli, come si fa a non pensare a un... come il suo, ha le caratteristiche, l'utilità delle sue caratteristiche, questo volevo che lei mi desse una spiegazione, perché io ho orecchiato qualcosa a Torino su storie varie con Moggi eccetera che potessero spiegare il suo accantonamento, ma il perché nessuno pensa a Niccoli in Nazionale è una cosa che io l'ho visto a Milano col Milan, cioè una cosa imprendibile, una cosa, e risolve le partite da solo. Forse perché non è bello, forse perché è tozzo dall'orecchino, non lo so. È una troppi cosa tatuaggi, che... lei dice. Non lo so, no, ecco, no, lei, guardi Carlo, io mi limito a rispondere che in periodo di campagna elettorale come questo vale tutto e vale qualunque candidato, no? E vale anche un po' di dietrologia come quella che lei ha fatto. Come caratteristiche sì, può essere, è un giocatore estremamente discontinuo che sta vivendo un momento fantastico, lui come il Palermo, però da lì, ripeto, adesso vale tutto, anche perché non mi sembra che in una Nazionale che non fa gol neanche con le mani ci sia l'urgenza di rivedere qualche decisione offensiva, e ripeto, se ci va Quagliarella in queste condizioni, allora vale anche Niccoli, come valgono moltissimi altri, ho l'impressione. So come la pensa Alberto Costa. Ciao Alberto. Ciao, buonasera. Vale tutto in campagna elettorale. È chiaro che il partito di Balotelli è stramaggioritario, però vale anche quello di Niccoli, vale anche quello di Matri, ne valgono moltissimi. Certo. Sì, beh, poi adesso con il mondiale che avvicina, chiaramente ognuno, tra virgolette, visto che noi siamo davvero una nazione di svariati milioni di commissari tecnici, sponsorizza il giocatore che preferisce. Comunque effettivamente ci sono dei giocatori tipo Quagliarella che non si capisce a quale titolo abbiano ancora spazio in nazionale, quindi anche il nostro ascoltatore ha buoni motivi per sponsorizzare Micoli, che in questo momento sta facendo veramente molto bene. Anche il gol di oggi è straordinario. La filosofia di Lippi comunque è abbastanza chiara, oramai c'è un gruppo di 17 giocatori, ma io la condivido nella sostanza. Lo zoccolo duro della squadra che è oramai definito, e ce ne sono 6 o 7 che queste ultime settimane di campionato dovranno portare all'attenzione del CT, e credo che qualche sorpresa potremmo averla, perché appunto l'ascoltatore parlava di Micoli, ma se ci spostiamo a centrocampo uno si domanda, ma come mai Ambrosini, che credo che fossero anni che non giocasse con questa costanza di rendimento, titolare nel Milan, non è in nazionale, e Gattuso, che nel Milan ha perso, diciamo, i gradi, gioca molto di meno, e invece continua ad essere regolarmente chiamato. Insomma, i dibattiti sulla nazionale non finirebbero mai. No, non finiranno mai. Quando voglio avere un riscontro lucido delle prestazioni del Milan, come sempre la domenica mattina o lunedì mattina, a seconda del calendario, apro Corriere della Sera e leggo Alberto Costa, e mi ritrovo praticamente sempre. Ad esempio, leggendo a proposito della partita di ieri, se quello dell'Olimpico fosse stato un match di box, il Milan almeno si sarebbe aggiudicato nettamente la sfida ai punti, ma visto che nel calcio fino a prova contraria a fare la differenza sono i gol, i rossoneri devono accontentarsi di aver dominato in lungo e in largo una Roma timida, sottomessa e in affanno. È stato loro un controllo incontrastato ma sterile della partita, perché nonostante Leonardo abbia schierato quasi tutta la sua artiglieria, il tiro in porta non era previsto. Oppure leggo anche: nella sostanza il Milan si limitava a vellicare la retroguardia giallorossa, incapace di affondare il colpo, troppo impegnato a trastullarsi con i suoi tocchetti continui, quasi che fosse scritto da qualche parte che in gol ci si dovesse arrivare con il pallone tra i piedi. Ripeto la mia impressione sulla partita di ieri sera: Milan forse tra i più convincenti della stagione fino alla tre quarti, da lì in su è un altro discorso. Sì, io sono abbastanza un po' controcorrente. Se uno dei Milan migliori diciamo, è riuscito così poche volte a tirare in porta, e quelle poche volte ci sono stati degli errori, e se questo è il Milan migliore, non lo so, c'è qualcosa che non va. È una squadra, ieri effettivamente ha giocato, è stata gradevole la manovra, la sua pressione, il suo dominio sono stati costanti, ma ripeto, il gioco del calcio ha un fine unico, bisogna tirare in porta e bisogna anche fare gol. Ieri il Milan è tornato ad essere quello che palla al piede, tante triangolazioni, e si cerca evidentemente il numero, giocatori che quando entrano in area passano ancora la palla o cercano il dribbling. Ecco, quelle due o tre volte che ci sono stati dei traversoni, dei cross, abbiamo visto Pirlo, mi pare, ha consentito a Ronaldinho di colpire di testa, la palla è veramente uscita di un niente. Beckham per Huntelaar nel finale, sì. Però ecco, sono state davvero gocce in un deserto di bel gioco, ma fine a se stesso. Adesso poi il discorso è sempre quello: è più divertente, è più gradevole per il palato, per il gusto dello spettatore, vedere una squadra che gioca molto bene e poi fa 0-0, o una che magari è un po' più cinica, più concreta, fa questi lanci lunghi e poi magari segna e vince 2-3-0, perché ieri la differenza, il gap che c'è stato tra Roma e Milan è stato una squadra che avrebbe potuto vincere 3-1 tranquillamente, insomma, il Milan. Assolutamente, manca però Alberto, e questo dobbiamo considerarlo, l'unico giocatore insostituibile, il più forte del Milan, cioè quello con la faccia da ragazzino, che anche a Manchester non ci sarà, o se ci sarà sarà tenuto insieme con lo spago. Insomma, è Pato, certo. Perché quelle caratteristiche non le ha nessuno, non a Borriello e Huntelaar che fanno scopa. Non aveva nessuno che cambiasse la marcia in avanti, questo è il problema. No, ma anche perché trovo un ottimismo anche eccessivo, lo sentivo ieri sera dai commentatori di Sky, lo leggo anche oggi su, da molte parti, un ottimismo eccessivo verso la trasferta del Milan a Manchester. Va bene il DNA europeo, va bene un Milan che ieri sera tutto sommato ha giocato una buona partita, ripeto, fino alla tre quarti, ma da lì a dire a spendere ottimismo eccessivo, ma mi sembra tanto. Io sono molto cauto, auguro ovviamente al Milan, a Leonardo di compiere l'impresa, anche perché non mi risulta che a Manchester qualcuno sia riuscito a vincere negli ultimi anni con due gol di scarto. Insomma, ricordiamoci anche il Milan di Kakà, quello del 2007, che poi fece l'impresa nella partita di ritorno, quindi era un Milan molto più giovane con Kakà. Quel Milan in vantaggio per 2-1 alla fine del primo tempo venne poi comunque travolto nel secondo tempo, insomma. E anch'io trovo un ottimismo, è giusto essere ottimisti perché non bisogna mai partire battuti, però insomma io credo che la qualificazione non sia stata, diciamo, non teoricamente possibile, però è stata grandemente compromessa nella partita d'andata. Alberto, prima di salutarti volevo condividere con te un'altra impressione. Facevo prima riferimento a molti, molti calcoli, molti conti che sono stati fatti in questi giorni, cioè il Milan sarebbe ha fatto due punti in più dell'Inter, lasciando stare queste partite, l'Inter deve ancora giocare, quella di ieri sera, eccetera, ha fatto due punti in più dell'Inter e quindi salvo i derby sarebbe davanti all'Inter. La Roma nelle ultime 16 partite ha fatto 7 punti in più dell'Inter. Mi sembrano un po' calcoli fini a se stessi, nel primo caso perché quei due derby, soprattutto il secondo, è lo specchio della differenza tra le due squadre. Nel secondo caso, perché onestamente anche per l'Inter è difficile essere sempre in largo vantaggio e in controllo, come di fatto sempre stato in questo campionato. Sì, certo. Allora, qualcuno potrebbe sospettare che io e te ci siamo messi d'accordo prima di questo collegamento. In realtà la penso esattamente allo stesso modo. L'Inter per tanti motivi, prima di tutto per gli investimenti che Moratti è in grado di assicurare, perché nessuno può ripianare ogni anno di tasca propria, mettere 300 erotti miliardi delle vecchie lire, e comunque anche con un'organizzazione e con una capacità di intervenire sul mercato notevole, perché l'Inter ultimamente ha sbagliato veramente poco. Per tutti questi motivi a mio parere una squadra di parecchie spanne superiore agli altri. Chiaramente in una stagione molto lunga non è possibile essere sempre al top del rendimento, però noi vediamo questa squadra e qui bisogna dare atto al suo allenatore che qualcosa ha trasfuso nel suo gruppo. Quando si trova con l'acqua alla gola reagisce di riffio di rafe in qualsiasi maniera. Insomma, ricordiamo la rimonta a Bari, ricordiamo il derby, la partita di Udine numerica, insomma, questa squadra, e quindi è normale che la squadra abbia dei momenti in cui rallenta. Però ripeto, noi stiamo parlando, certo, giornalisticamente fa gioco tenere Bravissimo. Aperto, e anche per l'interesse del campionato è bello che si possa pensare a una lotta a due o a tre, ma quello che abbiamo visto ieri a Roma è la fotografia impietosa di questo campionato, che può essere perduto soltanto dall'Inter. Bravissimo. Se succede magari, non so, un'epidemia piano gentile di non so che cosa, ma l'influenza quella suina credo che non oramai sia del tutto sparsa, quindi non vedo come l'Inter possa perdere questo scudetto, anche dopo aver visto ieri la Roma e il Milan. Certo, o lo butta via o le altre possono scordarselo, nel senso che questo la penso esattamente. Sì, beh, la Lazio anni fa lo buttò via, la Lazio di ieri non lo gettò via, e il Milan di Zaccheroni, molto attento, era lì sotto la finestra e l'ha preso. Era lì sotto la finestra, l'ha preso, però ci vuole qualcuno che lo butta via. L'Inter non mi sembra le condizioni, perché ripeto, quando è stata sotto pressione in questa stagione, ma anche nella scorsa, insomma, nel derby era sotto pressione, derby di ritorno, la fotografia è stata quella. Era sotto pressione a Udine domenica scorsa con un sacco di assenti e ha risposto in quella maniera. Adesso la vediamo stasera contro il Genoa l'Inter. Grazie Alberto, a presto. Ciao. A prestissimo, grazie ad Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera. Ci fermiamo un attimo, subito dopo Giampiero da Grosseto, Paolo da Pescara. 80024 0024 è il vostro numero verde. Marco, siamo intercettati. Ci hanno messo le cimici. Ci ascoltano ovunque. Mi hanno detto persino alla radio. Siamo alla radio, alla, hai capito? Alla radio, on air. Ma che splendida opportunità mediatica. No, scusate, non ho capito. Siamo intercettati o una grande opportunità? Cosa dottor, sta... dottor, tutti i giorni su Radio 24 alle 16:50 si ascolta che par de sentirla parlare proprio lei. Uè, ma come alle 16:50 a parlare in radio? Uè, disgiochi, alle 16:50 io lavoro. E ho capito, ma 5 minuti ci si può fermare, stiamo sempre a lavorare. No, no, no, no, mi lavoro e mi ascolto invece la replica la sera alle 22:50. Ma siate smart, ma scaricatela in podcast. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv, 3Z2O1T. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Venga anch'io. Impossibile non dire venga anch'io. È nata Kia Venga, l'auto più ospitale che c'è. Altissimi livelli di tecnologia e comfort. Motori benzina, diesel e GPL tutti Euro 5. E sulle versioni benzina e diesel, 7 anni di garanzia. Nuova Kia Venga, da 13.900 euro con incentivi in tutti i concessionari Kia. Venga anch'io. Oggi! Risate assicurate con Giorgia Mildred. In edicola tutti gli episodi con la coppia più graffiante e divertente della TV anni 70. Nessuno capirebbe perché ti ho sposato. Giorgia Mildred. In ogni DVD 3 episodi completi. Da Hobby and Work. Mildred! Altri piatti! No! Ma potrei invitare tutto lo stadio! Oh, i coltellini per il pesce palla! Basta! Cambia lista. Scegli i FOP Pedretti. Articoli nuovi, esclusivi, eleganti e funzionali in legno. Una lista nozze originale per vivere la tua casa in modo utile e nuovo. FOP Pedretti, la tua lista nozze, fuori dal comune. La Lean Production, finalmente puoi provarla davvero. Nasce la Cart Factory by J-Mac, la prima e unica fabbrica modello in Italia per imparare le metodologie Lean. Ti aspettiamo per una vera esperienza sul Gemba. Giovedì 11 marzo ore 14, Università Luca Castellanza, con il patrocinio dell'Associazione Industriali di Varese. Info su jmac.it. Serve una lavatrice, lavastoviglie, frigorifero. Expert ti dà in più Digital TV. Ma dai, una vera TV! Digitale LCD, dotata anche di tessera Mediaset Premium con 3 mesi di gallerie fantasy. Da non credere! Sì, come l'abbinata vincente lavatrice LG in classe A+, 8 kg di carico più Digital TV a soli 499 euro. Expert. La festa degli elettrodomestici è solo da noi! Un'abbinata vincente! Imperdibile! Vendita abbinata valida dal 4 al 20 marzo 2010. Info e dettagli in tutti i materiali presenti nei punti vendita. Aderenti. A volte per voi sono dei partner. Quando vi sentite combattivi li chiamate alleati. Quando volete essere più concreti, semplicemente furgoni. Non importa come li chiamate. Quello che conta è che Renault è al vostro fianco dal 1901. Prova Kangoo Express Ice con clima, radio e porta laterale scorrevole a 9.950 euro. Tasso zero fino a 60 mesi e fino a 4 anni di garanzia. Tag massimo 1,82. Per il tuo business non c'è tempo da perdere. L'offerta Renault scade il 31 marzo. Per trasformare la vostra azienda non basta adottare una nuova tecnologia. Per avere successo dovete cambiare il business model. Clayton Christensen. Il Sole 24 Ore presenta 100 grandi idee di management. In un CD, oltre 100 tra i migliori articoli pubblicati nel 2009 dalla Harvard Business Review Italia. In edicola con Il Sole 24 Ore. Tempo di sport. Giordano da Macerata che scrive: ieri per l'ennesima volta a Firenze sono stati derisi i morti dell'Aisel. Non se ne parla perché non sono neri o perché juventini. No, non credo, mi auguro che non sia così. Se è vero questo, è una vergogna per tutti. Altro che se Saltelli muore Balotelli e altre idiozie di questo tipo. Se è vero, è una vergogna per tutti ed è una vergogna che non ha nulla a che fare con il razzismo, con le squadre, con il tifo, con tutte queste cose. È semplicemente una questione di maleducazione, perché sappiamo quanti Neanderthal popolano gli stadi italiani, altro che razzismo vero o presunto. Giampiero Grosseto, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, molto interessante quello che ha detto Costa, soprattutto nella prima parte, soltanto che si omette un particolare, che in Italia nel calcio si pensa di vincere per luoghi comuni, e così anche nella nazionale, dove vince il gruppo e non vincono i giocatori. Balotelli, Miccoli, Matri, Ambrosini e quant'altri sono sacrificati su questo altare, ed è anche antistorico. Sì, beh, il gruppo qualcosina conta, e lei mi insegna, Giampiero, nello sport. È chiaro che soprattutto in una manifestazione come il Mondiale devi passare attraverso, in maniera molto rapida, attraverso vari momenti di difficoltà, e da quelli, insomma, il gruppo ti può levare fino a un certo punto. Serve un colpo di genio di un giocatore. Lei probabilmente si ricorda che il gruppo ci ha fatto vincere nell'82, non il gruppo ovviamente, comunque un nucleo di giocatori importanti che si erano equalizzati bene, così come nel 2006, per le motivazioni che conosciamo. Sì, ma anche non solo per quelle motivazioni, perché questo sarebbe un errore storico, anche perché Lippi era stato bravissimo a lavorare per 2 anni su un progetto preciso, e noi siamo arrivati ai mondiali con una squadra di club, perché quella era una squadra di club che aveva la faccia, le dinamiche, gli automatismi, e anche il gruppo e lo spogliatoio di una squadra di club. Prego. Ma nel 2002, con il solito gruppo, con Baggio più o meno vecchio, sacrificato per il dualismo Totti Del Piero, e nel 2002 si sono persi nel 94, cioè nel 98 sicuramente, nel 94 il gruppo miracolo di Enrico Sacchi fu tirato fuori dal tombino da Baggio, così come il 90 il gruppo mirabolante di Vicini fu tirato fuori per i capelli da Staci, quindi ecco, questo gruppo Moloch, poi alla fine è vero sicuramente quello che dice lei, nel senso che è un elemento di primaria importanza, dove quella che è la costruzione di un successo, di una mentalità, tuttavia va un attimino ridimensionata la portata. Poi i grandi risultati, laddove ci sono stati, della nostra nazionale, oltre al gruppo, sono stati portati, ripeto, da singoli tipo Schillaci nel 90, che ci porta in semifinale. Anche se nel 2006 questo singolo non c'è stato in realtà, perché se ricordiamo che il Pallone d'Oro è finito a Cannavaro, che il migliore di quella squadra era stato Cannavaro, che comunque non abbiamo avuto un giocatore capace di segnare un numero significativo di gol in quel mondiale. Insomma, questo è vero per tutti gli altri casi che lei cita, da Paolo Rossi a Schillaci, andando a Baggio, andando indietro nella storia. È un po' meno vero nel 2006. Discorso interessante, un po' filosofico, ma è finito. Paolo Pescara, buonasera. Buonasera, io vorrei fare 2 rapide considerazioni. La prima, anch'io su questo discorso della nazionale, confermando quello che un po' stavo ascoltando, cioè che se guardiamo la storia di Lippi, è indubbio il fatto che i suoi successi li deve a un suo grande lavoro che ha fatto con il gruppo, guardiamo la Juventus, facendo venire fuori i vari Ravanelli, un giocatore anche di seconda fascia, che però inseriti in un gruppo, in un contesto, ha portato la squadra a grandi risultati. E anche la nazionale, vincendo il mondiale, lo abbiamo vinto con il gruppo, ecco. Questo è quello che... Ma lì per un allenatore di club che ha lavorato come un allenatore di club nella prima parte, nel suo primo mandato. In questo secondo mandato sta lavorando un po' più come commissario tecnico vecchia maniera, insomma, mi pare. E poi? No, niente, poi il discorso di Balotelli, per cui mi viene da dire questo: Balotelli lo vedo molto difficilmente inseribile in questo gruppo, non fosse altro per il fatto che ha un carattere non facile. Sì, anche se, ma lei è convinto che Balotelli andrebbe ai mondiali a fare i capricci? Io questo chiaramente non lo posso dire, non saprei. Mi augurerei di no. Il problema è che la storia di Balotelli, in questi suoi primi anni di professionismo, noi abbiamo davanti agli occhi il fatto che lui quasi ogni partita che gioca deve creare qualche cosa, per cui deve mettere in difficoltà il giocatore con cui gioca, cade per terra, simula, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è... Non so, forse avrà, ma avrà i suoi difetti, dentro che... I suoi difetti ce li ha. Paolo, i suoi difetti ce li ha e sono davanti agli occhi di tutti, no? Sono anche il suo limite, e prima o poi lo capirà. Però in tutta onestà io non immagino un Balotelli che va ai mondiali in ipotesi a fare capricci, non immagino un Balotelli che chiede una maglia titolare, sarebbe pura follia, nonostante il suo ego anche eccessivo. Vedo invece un giocatore che è in grado, proprio per, ripeto, per caratteristiche tecniche, di portare quello, ed è forse l'unico da questo punto di vista, di portare quello di cui un mondiale c'è terribilmente bisogno, cioè la capacità di entrare e cambiare la partita, di entrare e incidere sulla partita anche in pochi minuti. È chiaro che sarebbe folle a portare Balotelli titolare ai mondiali in questo momento, è un giocatore che in questo gruppo non c'è mai stato, con questa squadra non ha mai giocato, eccetera eccetera, però lasciarlo a casa e portare, ripeto, il Quagliarella di questa stagione, o portare, che ne so, Iaquinta reduce da mille infortuni, o portare chi volete voi, perché poi alla fine, insomma, ripeto, Miccoli, la campagna elettorale è in pieno divenire e tutti i partiti hanno diritto di cittadinanza, però mi sembra in questo momento l'unico giocatore in grado di entrare e fare quel tipo di lavoro, fare quel tipo di anche per un come lo sta usando Mourinho in questa stagione all'Inter, per un quarto d'ora, per mezz'ora, per un tempo, insomma, non ne vedo altri in giro, in tutta onestà. E poi è anche vero che, piuttosto che Miccoli, piuttosto che gli altri che ho citato, a me piace più guardare al futuro. È indubbio che la nazionale, presto o tardi, non da questo mondiale, dal prossimo, sarà di Balotelli, quindi come è stata di Vialli, che ha cominciato la sua avventura da ventenne al mondiale dell'86, quindi sarebbe anche giusto cominciare ad andare con questo filo, che poi verrà annodato da chi verrà dopo Marcello Lippi. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a lei da parte nostra, da parte della Gazzetta, per cui scrivi: caro Filippo, chi la ferma la Spagna? Beh, dipende, no, la Spagna in Europa non è così solida come appare qui, però vedremo adesso. Andrew ci dice la Spagna nazionale, io pensavo le squadre, vero, già concentrato sulla Champions League. No, aspetta un attimo, chi la ferma la Spagna nazionale? Nessuno, del vecchio, solo del loro bosque. Si possono fermare, solo loro. Sì. Io quello che gli dico, appunto, che ripeto sempre, se non vincono quest'anno possono anche smettere di partecipare, insomma. Sì, possono anche non iscriversi più, no, è certo che vanno ai mondiali, Filippo, con lo zainetto dei favoriti, ed è uno zainetto con entri mattoni. Sì, pieno di pietre, quello che vuoi, però dai, è una superiorità in questo momento. Se tu pensi che sì, la rivale teoricamente più accreditata è il Brasile, che insomma comunque non è un bellissimo Brasile, e poi cosa c'è? Insomma, l'Inghilterra ha mille problemi, non ha il portiere, la difesa ballerina tra tradimenti dentro e fuori dal campo, no? Non c'è una spalla per Rooney, ci siamo noi che siamo un po' così, un po' incompiuti, e l'Argentina con Maradona mi sembra... attento alla mia Argentina, per cui simpatizzo. Beh, però, Maradona non è Maradona in maniera dichiarata. Beh, però, abbi pazienza, Maradona è un disastro, però hai visto la partita dell'altro giorno della Germania, qualcosa sta nascendo, sì, non so se a dispetto di Maradona, nonostante Maradona, un po' più improbabile dire grazie al lavoro di... con quattro centrali in difesa, non lo so, mi sembra che ci siano altre persone che potrebbero essere chiamate cioè praticamente lui è sceso con quattro difensori, più c'aveva Mascherano e Veron, e poi le due ali, va bene, Di Maria abbastanza offensivo, l'altro no, Jonas Gutierrez non è esattamente una gran partita. Va bene, ma qui la mettiamo, poi andiamo sul tifo, per il mio tifo l'Argentina, quindi può essere un dibattito molto lungo e molto acceso. Comunque, tra la Spagna, me la Spagna ha perso una partita su 45, sì. E voglio dire, quella con gli Stati Uniti, che quindi è anche quella che conta, se vogliamo, perché gli ha tolto la Coppa, la Confederations Cup, però ecco, possono solo perdere loro, voglio dire, cioè, hanno un tale serbatoio di talenti, sì, che è incredibile. Ma poi sono in fiducia. Ma Balotelli ci andrebbe ai mondiali, fosse spagnolo, nella Spagna naturalmente. Ci sarebbe discussione su un Balotelli, sì, in questa squadra così giovane? Cioè, sicuramente. Lo porterebbero di default? No, dipende, no. Porterebbero di default? No, per un semplice motivo, che c'è una concorrenza enorme. Cioè, nella Spagna può fare panchina Fernando Torres, può fare panchina Cesc Fabregas. Allora Balotelli, con tutto rispetto, dico, sì, forte, fortissimo, però questi sono giocatori di grandissimo livello che possono, dipende, se giocano con una punta sola, uno tra Villa e Torres deve star fuori, se giocano con le due punte, i quattro centrocampisti, magari sta fuori, può stare fuori Silva, Fabregas o Xabi Alonso. L'altro giorno hanno cominciato con Xavi Hernandez in panchina, voglio dire, è che qui veramente ci troviamo di fronte a una generazione di fenomeni, insomma, di grande qualità, E oltre a essere favoriti, la cosa secondo me bella è che è una squadra che gioca poi molto bene, che fa divertire, insomma. Filippo, un attimo di pazienza che abbiamo il traffico e poi parliamo. Facciamo una battuta su un campionato, beato te che ce l'hai un campionato aperto lì in Spagna, ma aperto sul serio, è una corsa a due, è chiaro, però almeno delle due al momento non sono sicuro che vincerà Barcellona quest'anno. Traffico. Strade in diretta. Traffico di rientro verso le grandi città, le code più lunghe sono quelle verso la capitale, sulle principali direttrici. I lavori condizionano la viabilità sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, sia in direzione Firenze sia in direzione mare. Sul raccordo Salerno-Avellino si è resa necessaria la momentanea chiusura dell'uscita di Lancusi per il traffico intenso a causa del raccordo, fuori dal raccordo. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Fisciano. Per quanto riguarda le condizioni meteo, sul Piemonte occidentale, tra le province di Torino e Cuneo continua a nevicare. È in atto una debole nevicata anche sugli Appennini tosco-emiliani e su quelli abruzzesi. Piove tra Sicilia e Calabria. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Chi stampa molto a colori deve puntare sul verde. Infatti, chi sceglie una stampante multifunzione Xerox a inchiostro solido non solo ottiene un'alta qualità di stampa anche su carta riciclata, ma rispetta l'ambiente perché grazie ai colori costituiti da materiali naturali e atossici produce il 90% in meno di scarti rispetto alle normali stampanti laser. Inoltre, chi decide di rottamare una vecchia stampante entro il 30 aprile con una velocissima stampante o multifunzione Xerox Solid Ink potrà decidere se chiedere di piantare fino a 450 alberi grazie al programma ONU Pianta un miliardo di alberi può avere un rimborso fino a 300 euro. Per condizioni e offerte xerox.it/promo. A tempo di sport. Allora, il Barcellona ha rimontato, il Real in rimonta, beato te che hai un campionato in Spagna. Non basta Messi, Barça raggiunto, Real la rimonta vale l'aggancio al primo posto. Questo scrive Filippo Verrerici sulla Gazzetta di oggi. Sì, un sabato da tregenda ieri, bella, un grandissimo sabato, veramente sono due partite emozionanti. Sì, il Barcellona che pareggia ad Almeria, Barcellona con le pile scariche assolutamente. Tu mi hai detto, dice, non sono sicuro che lo vinca il Barcellona. Io domani vado a scommettere a Real. Esatto, no, io quello ti dico, io sono praticamente sicuro che il titolo lo vinca il Real Madrid. Addirittura però sicuro? Ci sono fasi, diciamo c'è chi sale e c'è chi scende, come si dice. E il Barcellona per il momento è tenuto in piedi da Messi, Guardiola nervoso, ieri questa espulsione, un po', magari anche un po' esagerata, però è andato a un centimetro dal guardaline, non c'è bisogno, non è da Guardiola. Anche se qui facciamo ricordare che il ragazzo ha rimediato ben 8 rossi da giocatore col Barcellona e siamo già 5 da allenatore, quindi insomma qualche cosa gli dà. Gli succede, però in generale invece qua, voglio dire, il Real Madrid poi quando si carica così come quelle serate come quelle di ieri sono qualcosa di strepitoso, insomma, per cui lo vedo meglio. Però detto questo, se il Real Madrid vince la Liga e non vince quello che deve vincere, cioè lo so non conta, nulla, e c'è da ridere, è inutile, lo so. Qui sono venuti qui per vincere la Champions, se vincono la Liga l'ha vinta anche Calderon ben due volte. Per cui, però insomma, adesso questo può dar morale, voglio dire, Real Madrid in casa è strepitoso. Io adesso aspetto con ansia questa sfida con Lione. In campionato, in casa, Real Madrid ha fatto 44 gol in 13 partite, cioè non ce n'è al Bernabeu. Sì. Vediamo che succede con Lione. E certo, perché poi l'ago della bilancia è quella partita, hai ragione tu, Filippo. Grazie. Quelle che seguiranno, probabilmente. Quelle che seguiranno, se ne seguiranno esatto. Delle altre, se no andiamo, ci limitiamo ad andare a incassare la nostra vincita però se è con Lione perdono tutto, poi qua succede l'inferno proprio. Buon lavoro, Filippo. Un abbraccio a voi. Grazie Filippo Maria Ricci. L'altro Ricci, Dario, mi ha raggiunto, così cominciamo a parlare di basket. Eccoci qua, buonasera. Allora, quinta di ritorno, siamo intorno al quinto del secondo periodo su tutti i campi di gioco. Intanto partiamo dai risultati dell'anticipo delle 12. Armani Jeans Milano batte Canadian Solar Bologna 73-71, poi il successo di Cremona a Napoli 145-48 e poi per le partite che si stanno disputando commentando ora, 24-26 per Siena sul campo di Ferrara, Angelico Biella all'Ottomatica Roma 41-30, Teramo Cantù 17-28 per i Canturini, 35-24 il parziale tra Pesaro e Caserta, Ravellino Cimberio Varese 23-28. Naturalmente dopo dalle 8:30 alle 9 tutto il basket che volete, adesso continuo a parlare con i miei amici ascoltatori. Nicola da Napoli, Andrea da Como. Nicola, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Niente, io volevo fare un riferimento a due cose che ha detto lei. La prima riguarda il discorso, diciamo, Quagliarella, no? Che è stato un investimento, secondo me, mal riuscito, almeno per adesso. E quindi, come lei, cioè, sono d'accordo nel bastonarlo, diciamo, no? Tra virgolette. No, non bastono nessuno, semplicemente non trovo un altro motivo per insistere in questo momento della stagione su Quagliarella, perché non, sì, perché non sta bene, perché è un giocatore che non rende. E ci insiste, ma la cosa più strana non è tanto che ci insista Mazzarri dopo che De Laurentiis ha speso quella montagna di soldi per prenderlo. La cosa più curiosa è che ci insista Lippi convocandolo. Infatti. Anche perché io, guarda, le do del tu, mi scusi. Ma come vuoi? Le do del tu, anzi. Come vuoi? Allora, cioè, secondo me la società ha fatto buone cose in questi anni, no? Diciamo, il bilancio è sempre stato chiuso in attivo e con uno sforzo in più si poteva prendere un grande campione che comunque noi a Napoli sogniamo e vediamo comunque adatto alla squadra, proprio perché è una squadra giovane. Sto parlando di Agüero, cioè è un sogno magari, però penso che con uno sforzo in più... No, Nicola, per Agüero ci vogliono molti più soldi, non... No, ci vogliono più soldi, sì, assolutamente. Per questo io spero che magari con un po' di fortuna si possa arrivare in Champions, magari con i soldi che prenderemo comprare un campione del genere, perché comunque noi, parlo di noi perché io sono tifoso del Napoli, sì, capito? L'avevo intuito, non so come mai, ma no, ma io so benissimo che insomma quella è la patria dei sogni, no? Che quella è la patria dei sogni. È un sogno la Champions League, se invece parliamo di realismo. La Champions League per questo Napoli sarebbe un po' troppo. Certamente con la programmazione ci si può arrivare, non prendendo Agüero perché quello è, io credo irrealizzabile. Torno a ripetere, con una squadra che abbia degli equilibri diversi da migliorare, certamente degli equilibri diversi, perché secondo me Lavezzi è un giocatore che a me piace molto, ma che forse il Napoli dal punto di vista tecnico non si può permettere. È un attaccante che la porta la vede pochissimo, che è straordinario nel saltare l'uomo, straordinario nelle accelerazioni. L'avesse il Milan ad esempio un giocatore come Lavezzi, l'avesse avuto in una partita come quella di ieri sera dell'Olimpico, non sarebbe finita 0-0, per riprendere il discorso che facevamo prima con Alberto Costa. Il Napoli non si può permettere in questo momento di avere una coppia offensiva che mi sembra intoccabile come Lavezzi, che la porta non la vede, come Quagliarella che la porta non la vede più, non la vede almeno in questa stagione, comunque non sta bene anche da un punto di vista proprio tecnico, mi sembra una coppia mal assortita, tant'è vero che, ripeto per l'ennesima volta, Napoli funziona meglio, ma è visibile la differenza quando gioca Dennis, che pure non è un fenomeno. Senza stare ad andare a prendere Agüero, un giocatore in grado di garantire, insomma, se Napoli avesse preso, e quello magari era anche realizzabile anche se c'era l'Inter di mezzo, un giocatore come Milito, allora parliamone, insomma, direi. Andrea Como, buonasera. Una aspetti che spengo la radio, bravissimo, perché... se no sento il ritorno in cuffia. Sì. Dunque, una proposta di analisi sul nostro calcio, sì, iniziato da una cappa di conformismo. Le do due esempi, nel senso che quando Owen debuttò a 18 anni nessuno si scandalizzò in Inghilterra, ma questo noioso totem del gruppo di Lippi, che è veramente una persona super irritante, se fosse applicato nella storia del calcio, io penso che persone come, senza paragonare Cassano, Balotelli a questi nomi che sto dicendo, come Best, come Maradona, non sarebbero mai andati nella propria nazionale. Lippi è veramente una persona irritante, profondamente conservatrice. Sì. Un altro esempio sul nostro calcio, settimana scorsa il Palermo vince, io sono tifoso palermitano del nord, quindi penso un po' che contraddizioni, insomma. Vince a Torino? No? Si parla tutta la sera della crisi della Juventus. Abbiamo giornalisti, schiere di giornalisti che fanno paginate sui commenti demorati su quello che ha detto Mourinho, su quello che ha detto Gasperini. E su sul resto del nostro calcio viene detto poco e nulla. Si parla sostanzialmente di 4 squadre, 5 con la Lazio perché è di Roma. Io non sono leghista, assolutamente. Mm-hmm. È veramente, io penso che il danno del nostro calcio sia questa cappa, forse anche del nostro paese, però non andiamo troppo in là con i ragionamenti, sì. Questa cappa di conformismo, noiosità e conservatorismo che ammorba. Perché il gruppo è importante. Sì, il gruppo, no, ma il gruppo importante è se è un gruppo che gioca bene. Il gruppo importante è un gruppo che gioca bene. Quello che è andato in Germania era un gruppo, non giocava bene, ma ha vinto un mondiale. Perché insomma, lei ha un'antipatia dichiaratissima nei confronti di Lippi, però quello che ha fatto non possiamo dimenticarlo, non possiamo dire che è stato solo fortunato, non possiamo dire che ha sbagliato le scelte. Lui ha lavorato benissimo nel biennio che ha preceduto il mondiale e al mondiale ha raccolto i frutti. Ritengo che non stia lavorando allo stesso modo perché ha mille condizionamenti, alcuni sono noti, no? Altri un po' meno, sono solo sottintesi, ha mille condizionamenti e quindi credo che in questa marcia di avvicinamento ci siano diverse pecche. Poi siamo sempre lì perché si parla delle grandi, non si parla delle piccole, eccetera. Nel conformismo io metto in mezzo anche il fastidio che dà uno che dice le cose come José Mourinho nel nostro calcio. Dario, diamo un ultimo giro di aggiornamenti perché vedo che ad esempio a Biella è finito il primo tempo. Sì, a Biella è finito il primo tempo, 46-36 per i padroni di casa su Roma. Siena in vantaggio di 8 punti sul campo di Ferrara, 33-25, 25-31 il vantaggio di Cantù a Teramo. Significativo anche il vantaggio di Pesaro su Caserta, più 5, 39-34, 32-38 invece per Varese ad Avellino. Purtroppo non riesco a parlare con Massimo da Udine, mi dispiace davvero, ma domani c'è Gigi Garanzini dalle 2 alle 3, io torno venerdì con Palla Spicchia, comunque nel prossimo weekend, naturalmente tornerò più tardi insieme a Dario Ricci dalle 8 e mezza alle 9 per raccontarvi come va a finire questa giornata di basket di cui vi abbiamo dato per ora soltanto i parziali. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca in redazione, ma ci sentiamo dopo.